vedersi, poi torni dove sei tu. Il deserto da nostra va a credere di per tu. Devi tu il è qua, neanche che te le cengua, dolce lo poi tocce il te, ne se l'am te lì, del tu sei e te scherà, no frutti a Trecetti si ottiva, ottiva si di nostra, ne ho trecia, vecchio se ostale tu, i cetanari I see you.